tatuaggi e piercing. Queste riflessioni, oltre che essere dirette alla pratica dei tatuaggi e dei piercing, hanno lo scopo di mettere in evidenza il valore del nostro corpo e come questo deve essere trattato. Purtroppo, non si può negare che una certa avversione per il nostro corpo proviene, nel corso dei secoli, anche da un errato insegnamento proveniente da certi figli di Dio. Obiettivamente, non è possibile respingere a priori, definendoli infondati, tali rimproveri, almeno per quanto riguarda il passato. A causa della penetrazione di idee gnostiche e platoniche, già nel periodo paleocristiano, la materia venne svalutata nei confronti dello spirito. Alcune affermazioni dell'Apostolo Paolo sembrano confermare tale visione, facendo giungere fino ai nostri giorni un forte eco della teologia ostile al corpo. Non possiamo quindi meravigliarci se ancora oggi in certi ambienti cristiani vi sia un certo atteggiamento ostile nei confronti del corpo. Purtroppo una scelta nemico del corpo è spesso anche molto intollerante in questioni dottrinali. Vi è qualche indicazione in merito ai tatuaggi nella parola di Dio? Poiché non vi è nulla di nuovo, sotto il sole, l'Eterno Dio aveva dato delle precise disposizioni relative al modo di trattare il nostro corpo, un ordine che indicava come ci si dovesse comportare nella vita. Non mangerete nulla che contenga sangue. Non praticherete alcun genere di divinazione o di magia. Non taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né spunterai gli orli della tua barba. Non farete incisioni nella vostra carne per un morto, né farete alcun tatuaggio su di voi, io sono l'Eterno. Levitico 19:26-28. Tale ordine viene ripetuto dopo che il popolo di Israele aveva viaggiato nel deserto per circa 38 anni. Voi siete i figli dell'Eterno, il vostro Dio, non vi farete incisioni e non vi raderete tra gli occhi per un morto, poiché tu sei un popolo santo all'Eterno, il tuo Dio. E l'Eterno ti ha scelto per essere un popolo suo, un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Deuteronomio 14:1. Da notare che la ragione per cui il popolo di Israele non doveva farsi tatuaggi o incisioni nel corpo era perché doveva distinguersi dagli altri popoli. Questo comandamento era talmente importante che anche ai sacerdoti, i rappresentanti del popolo di Dio, era stato dato il preciso ordine di rispettare il loro corpo. I sacerdoti non faranno tonsure sul loro capo, non raderanno gli orli della loro barba e non faranno incisioni nella loro carne. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono i sacrifici dell'Eterno, fatti col fuoco, il pane del loro Dio, perciò saranno santi. Levitico 19:5-6. L'ordine di rispettare il proprio corpo non facendo tatuaggi era dato dall'Eterno Dio al suo popolo, quando in Egitto la pratica di farsi tagli sul volto, sulle braccia e sulle gambe, soprattutto nel periodo del lutto, era considerato un segno di rispetto per il morto, ma anche una specie di offerta propiziatoria verso le deità che governavano la vita. In diverse civiltà i tatuaggi venivano praticati per diversi scopi. In alcuni casi, soprattutto in Estremo Oriente, erano legati all'appartenenza ad un determinato clan per indicare maturità e coraggio, o a riti religiosi. Prova ne è che quando il profeta Elia sfidò i sacerdoti del dio Baal, leggiamo che essi si misero a gridare più forte e a farsi incisioni, con spade e lance secondo le loro usanze finché grondavano sangue. 1 Re 18:28. Sempre in Estremo Oriente, leggiamo nel libro della Genesi che il servo di Abramo diede a Rebecca, la futura sposa di Isacco, degli anelli che andavano nel naso, Genesi 24. I greci usavano i tatuaggi per comunicare nel mondo dello spionaggio, mentre i romani li usavano per segnare criminali e schiavi. Questa pratica di deturpare il corpo non è dunque una novità. Molti giovani hanno abbracciato la pratica del tatuaggio e dei piercing come se fosse una novità assoluta. Ma tale atteggiamento deriva da chi è abituato a considerare le cose solo nell'ottica della sua generazione come se non esistesse un passato. Purtroppo, anche certi giovani credenti che, per quanto se ne dica, non possono essere estranei alla cultura della loro generazione, sono sedotti dalla pratica dei tatuaggi pensando in non far nulla di male se hanno tatuato sulla loro pelle la rappresentazione di qualcosa. A volte, per far passare per lecita la loro decisione, fanno appello alla quantità del tatuaggio o a ciò che viene rappresentato. Ma l'illecito rimane tale, anche se è di minore estensione. Chi ha posto fede in Gesù Cristo deve accettarne non solo gli insegnamenti clamorosamente vistosi, ma anche quelli che apparentemente sono di minore importanza. Come dire che non si deve mentire davanti al tribunale? Ma una piccola bugia è lecita perché è piccola? Così un piccolo tatuaggio, un piccolo piercing di un orecchio e in qualsiasi posto non visibile rimane sempre una trasgressione al principio di Dio di onorare il proprio corpo. In un modo assai diverso, anche i primi cristiani disprezzavano il corpo, perciò quello che facevano, e l'insegnamento che ne dà la Scrittura, sono validi anche oggi. I credenti di Corinto amavano indubbiamente il loro Salvatore Gesù Cristo, ma ritenevano il corpo come qualcosa di inferiore, al punto che frequentavano le prostitute. In questo contesto, l'Apostolo Paolo scrive: «Fuggite la fornicazione». Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. 1 Corinzi 6, 18-20. Mentre nell'Antico Testamento l'Eterno Dio aveva dato delle leggi in merito al corpo perché potesse essere santo e onorato, dopo la venuta di Gesù Cristo, dopo la sua morte, la sua resurrezione e la sua glorificazione, chi pone fede in Cristo riceve lo Spirito Santo promesso. Il corpo del credente viene così ad essere l'abitacolo dello Spirito di Dio. Mentre prima della venuta di Gesù Cristo, il corpo del credente era importante perché doveva essere santo, dopo la glorificazione di Gesù Cristo, il corpo di chi è diventato un figlio di Dio è doppiamente importante e santo perché è il contenitore, il tempio della stessa natura di Dio, come lo definisce l'Apostolo. Proprio per questa prospettiva e realtà, un figlio di Dio è più responsabile di trattare il proprio corpo con tutto il rispetto e l'onore che deve essere dato ad un corpo. L'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne, Proverbi 11 e 17. Così, poiché con la sua morte Gesù Cristo ha comprato chiunque crede in Lui, il credente è chiamato a glorificare Dio con il suo corpo in ogni maniera, astensione da tatuaggi e piercing compresa. Dimostrazioni di questo genere, frutto di credenze pagane in contrasto con la parola di Dio, devono perciò essere evitate, non tanto per andare controcorrente, ma per ubbidire alla volontà di Dio. Nulla vieta però a coloro che appartengono a Cristo, soprattutto le donne, di essere rivestiti di un abito, poiché un figlio di Dio, prima di essere tale, è figlio dell'umanità. Dobbiamo trattare il nostro corpo responsabilmente. Una persona che non tratta bene il suo corpo e che trascuri la propria salute è un cattivo amministratore, disonora così il Creatore, anche se ciò avviene in buona fede. Come trattiamo il corpo, lo vediamo subito. Al mattino. La frenetica vita di oggi ci impone di compiere ogni cosa in fretta, per cui, dopo una rinfrescata veloce alla faccia, corriamo subito ai nostri impegni. Per quanto mi riguarda, al mattino devo dedicare almeno una ventina di minuti al mio corpo per poter essere in grado di affrontare il peso della giornata. A parte che in casi eccezionali nasciamo con una buona salute e siamo responsabili di mantenerla, tale quale Dio ce l'ha donata. Mantenere la salute fisica comporta tempo, impegno, intelligenza, perché, per natura, siamo inclini a sprecare un dono così inestimabile. Quando si è giovani, si danno al corpo strattoni non indifferenti e di ogni genere, ma con il passare degli anni il corpo, che non dimentica nessuno sgarbo, reclama i suoi diritti. Quanti sono coloro che si trovano ad avere una salute malferma, prima del tempo, solo perché non hanno seguito norme salutari, sia fisiche che spirituali. La responsabilità è grande perché, se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. 1 Corinzi 3 e 17. È volontà di Dio che i suoi figli siano normalmente sani, a meno che, da parte sua, non vi sia un altro piano. Non tutti coloro che hanno dato la loro vita a Gesù Cristo hanno compreso che lo Spirito Santo vivifica, fortifica e genera vita, non solo alla parte spirituale del nostro essere, ma anche al nostro corpo. La redenzione non è una redenzione fuori dal corpo, ma anche del corpo. Credere a questo significa non chiedere nulla di più di quanto si riceve, ma, nemmeno, accontentarsi di una misura inferiore della vita abbondante promessa dal Signore Gesù. E questa abbondanza è riferita anche alla salute fisica. Un fisico sano onora Dio quanto la predicazione del Vangelo, perché alcune malattie, causate dallo stress, dall'ansia, come un'obesità dovuta all'incontinenza del cibo, sono segnali di incoerenza, che si riflettono sulla parte spirituale e allontanano anche le anime più disposte a vivere per Dio. Chi non sa gestire il proprio corpo, come può pretendere di gestire la parte spirituale? Chi si fa anche un solo piccolo tatuaggio, o si mette un piccolo piercing per essere alla moda, si esclude dalla moda perenne di Dio di trattare bene il corpo. Luglio 2004. Ellero.